Giuseppe Cruciani si guadagna da vivere a suon di querele, insulti, racconti ogni giorno alla Zanzara di Radio 24. È famoso per essere il Paganini della TV, la sua sublime Radio Belva ha ballato una sola notte. Il suo peggior nemico è chi mette in dubbio il suo curriculum di sciupa femmine. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Nunzia, oh Nunzia, so sopra te perché mi piaci, ma Nunzia a sospettar che non voglia i tuoi baci, ma quello che ti ho chiesto per favore, Nunzia, di prestare più attenzione a questa tua cadenza, dovresti riuscirci ormai, è tanto tempo che vivi qua, capisco le abitudini per carità, ma mettiti nei miei panni, quando parli Nunzia, quando parli, la meno base mi ripeti mentre io posso quindi ribadire con estrema serenità di non aver mai sponsorizzato alcun incarico, nello specifico ai vertici dell'ASL e più in generale in qualsiasi struttura sanitaria pubblica. Meglio tu non dica niente mai. Sottopongo alla vostra autorevole riflessione quanto sta accadendo in queste ore, nelle quali c'è una politica fuori dalla politica, un'inchiesta fuori dall'inchiesta e tutta l'impalcatura dello Stato democratico viene sovvertita dai manovratori occulti. I manovratori occulti. Non ho mai fatto una nomina in vita mia, non ho mai gestito nulla ed è tutto un complotto. Ci sono dei momenti anche commoventi alla Camera oggi, quando il ministro De Girolamo, il ministro dell'agricoltura, ha cercato il consenso soprattutto del PD, perché questo è il nervo scoperto. Mi hanno chiesto di piazzare la gente, ma io ho sempre detto no. Certo, non posso negare che mi sia stato da più parti richiesto, anche da persone autorevoli, di intervenire per fare attribuire incarichi nelle strutture sanitarie a parenti, amici, compagne, mogli, fratelli. Ho sempre detto no. E forse oggi mi fanno pagare anche questo. Nunzia mai. Nunzia mai. Ma vogliamo ricordare i messaggi? Secondo me la parte peggiore della De Girolamo di questi giorni, sul resto non mi interessa, secondo me non si dovrebbe dimettere, non è nemmeno indagata, è la solita questione della gestione della sanità a livello locale con i politici che si intromettono, ma insomma robe normali, finché la sanità sarà gestita dalla politica c'è questo e c'è molto peggio. Ma la cosa incredibile, vogliamo ricordarlo, sono i messaggi che ha spedito a Mastella. Mastella ha fatto delle critiche, ha detto che lui sarebbe stato trattato peggio, sarebbe stato sbattuto in galera, e lei cosa fa? Le manda un messaggio dicendo che sei una merda e poi sei un uomo di merda. Ma lei come ha risposto a questo? Io poi ho detto, guarda, eccetera, io mi sono soltanto... Se non legga lei il messaggio alla sua risposta. Fai quello che credi, sono dispiaciuto e ho risposto a domande su ciò che era apparso e come a me non è stato perdonato nulla, questa è la sostanza. Dopodiché dico, una che esordisce però, sei una merda, beh, si commenta da sé. E lei mi risponde, hai ragione, avevo dimenticato uomo, cioè uomo di merda. È finita in pochi attimi l'epopea di Gianni Vattimo, che voleva essere il primo parlamentare europeo, il filosofo del pensiero debole, voleva essere il primo parlamentare europeo grillino, lui che è passato dall'Azione Cattolica al castrismo, al comunismo, eccetera eccetera, a Di Pietro, lui che si proclama comunista. Gianni Vattimo, mi sono offerto al Movimento 5 Stelle. Parla bene, santo Dio. Sono 10 anni. Mi sono offerto, non candidato. Cioè, offerto. Ho detto, se mi volete, se servo a qualche cosa, sono disponibile ed è l'unico partito che mi sembra coerente con la mia storia precedente, nonostante che ce ne siano stati diversi. Oh, mi è sparito Parenzo intanto, mi è sparito dal raggio di azione. Vabbè, il solito venerdì parenziano in cui scappa non so dove. Rispondi, imbecille, coglione, rispondi. Davide, ecco, appunto. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? No, ma te lo dico subito, chiaramente. Rispondi a questo cazzo di telefono, dai, su, forza. Ciao, caro. Si può campare in questo modo? Si può vivere così? Cioè, si può continuare così? Con questo che fa i cazzi suoi, se ne va in treno per tutta Italia, non risponde al telefono. Io non lo so. Ormai è tutto. Lo so, caro professore. Tutto degradato. Degradatissimo, tutto molto degradato. Oh, a proposito, Sgarbi è a favore delle dimissioni della De Girolamo. Cioè, si è tolto il mantello del garantismo, Vittorione Sgarbi, e dice di essere a favore delle dimissioni. Vogliamo sentire questa cosa su dimissioni di De Girolamo, di Sgarbi? Sgarbone, il vecchio Sgarbone. La moglie di Cesare o la moglie di Boccia deve essere più pura dell'acqua limpida e quindi non può dare neanche la penombra, deve dimettersi per decoro istituzionale e opportunità, anche se ha ragione, ma questa ragione poi è molto controversa. C'è Sgarbi che dice che la De Girolamo deve essere più pura di non so chi. Dai, Vittorione, su, dai. Non si può parlare di nomine, dice Sgarbi, solo atti erotici, e nemmeno quelli da quando c'è la vicenda Berlusconi. Questo è un passaggio forte, eh? È lo Sgarbi, è il solito Sgarbi, lo Sgarbi che riconosciamo, dai, quello delle battute fulminanti. Quindi sulla Nunzia De Gregorio diciamo: un ministro non deve fare riunioni in casa sulla ASL, che sia o non sia registrato, ma deve lasciare che la politica si muova nelle sedi ufficiali. A casa propria puoi fare soltanto atti erotici, che sono quelli per cui è stato condannato Berlusconi, quindi neanche quelli, solo seghe. A casa propria solo seghe, ormai non più atti erotici, perché altrimenti viene intercettato. Beh, Carbone ai massimi livelli qui, eh. Ma se non cambierai, meglio tu non dica niente. Poi si scatena contro un deputato di Nuovo Centrodestra, Saltamartini, che dice: beh, è stata offesa in quanto donna, che non c'entra nulla, assolutamente nulla. Siamo un passo da Dio. Che D'Ambrosio è l'amante della De Girolamo, lo sapevi? D'Ambrosio è l'amante della De Girolamo. No. Vabbè, non ho Sgarbi, vuole... Sgarbi. E se perfino non accetto provocazioni, fatemi parlare di cose serie con la Saltamartini. Cosa farà D'Ambrosio? Si è voluto anche utilizzare il fatto che probabilmente il ministro in questione era una donna. Battute quale quelle che ho appena sentito dallo studio dimostrano sinceramente che si cerca di sempre screditare l'immagine di una femminista per forza. Fai ridere, la donna non c'entra niente. Non c'entra nulla, le battute si possono fare sulle donne perché sono uguali agli uomini, è una battuta assoluta e me ne scuso, ma non puoi approfittarne, perché non è perché è una donna che la mandano a casa, è perché ha sbagliato e la manderanno a casa. A chi la do stasera, io faccio quel. Ma vogliamo ricordare le lezioni d'amore di ieri sera di Daniela Santanchè qui alla Zanzara? Beh, ricordiamole subito, eh. Ricordiamole, perché ha dato un grande consiglio, anzi, un pessimo consiglio, secondo me, alle ragazze di oggi. Caro ospite che sei all'ascolto, le ragazze non devono darla, dice la Santanchè, perché si gode di più a non darla. Bah! Io ti vorrei dare questo messaggio. 4. Alle ragazze e alle donne, sì. Che molto sia molto più godimento e soddisfazione, sì. A non darla. Cioè, il consiglio alle giovani di oggi: non datela. E ricordatevi che la fedeltà è, sì, un valore straordinario. Non datela, il messaggio perché è questo. È così bello. Il dopo

0024 la Zanzara con Pasquale Squidieri, con Parenzo sempre desaparecido. Mughini serve qui, però Mughini docet, Mughini insegna. David? Ecco, ti David. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ecco, no, ma anche abbastanza rapidamente, direi, Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Siccome abbiamo litigato, allora non risponde al telefono, capito? Questo cretino non risponde al telefono. Dai, su, forza. Ma va a cagare, detta in termini, va a cagare. Vabbè, quello adesso non è che possiamo scatenare tutta la muta delle persone contro David, anzi sì, diciamo che finché non risponde al telefono mettiamo tutti quelli che hanno parlato male di Parenzo, tutti quelli che hanno parlato male di Parenzo negli ultimi anni, li mettiamo tutti insieme. Esatto, che ormai è tutto finito. Sì, e beh, certo, è tutto finito. Questo era Pomicino, questo era Cirino. Allora, Pasquale Squidieri, grande regista. Volevo sapere una cosa: il vaffanculo di Servillo, no? Quello alla giornalista di Rai News. Ormai ha fatto il giro del mondo ed è più famoso forse il vaffanculo di Servillo che il film stesso, no? Adesso esagero, ovviamente. Però, insomma, che ne pensi di Servillo tu? È un buon attore. Vabbè, questo è scontato. Adesso tu mi dici. Un ottimo attore, un po' più caratterista che protagonista, però va bene. E somiglia molto ai caratteristi del cinema americano degli anni 50, 60. Cioè, ma ti piace o no? Dipende dai ruoli, cioè, sai, quando dipende se. Francesco Rosi mi insegnò una cosa. Che cosa? Non esistono attori giusti e attori non giusti, esistono attori giusti nel ruolo giusto e attori sbagliati nel ruolo sbagliato. Quindi lui. No, ma voglio dire, come carattere, no? Hai visto come si è rivoltato contro quella giornalista? Non voleva le critiche. Ho sentito la registrazione. Allora? Ma questo è tipico un po', perché poi tu devi mettere nel bagaglio dell'attore anche la cialtroneria. Se ti racconto delle cose che faceva Mastroianni, ti vengono i capelli. Tipo, dimmene una. Eravamo al Festival di Belgrado, e io ero capo della commissione e c'era anche Marcello. Bene, allora ci offrirono, allora c'era ancora il comunismo, c'era ancora Tito, eccetera. Ci offrirono subito all'aeroporto una cena, ma molto gentili questi slavi, eccetera. E ognuno di noi aveva una ragazza che traducesse, una che parlasse bene l'italiano e che traducesse in slavo quello che noi dicevamo. Capita, mentre stavamo mangiando, vedo che la ragazza a fianco di Marcello piangeva. Allora dico, beh, che cazzo succede? Allora mi sono avvicinato, eccetera, e ho detto, ma scusi, ma che succede? Cioè, e ho capito che Marcello gli aveva detto, poi dopo tu vieni in camera da me. E questa aveva risposto, ma io perché dovrei venire in camera da te, sono ancora vergine. E allora guarda, che se non vieni, io dico qui al capogruppo di cacciarti via. E questo stava piangendo. Allora gli chiesi a Marcello cortesemente di andare a mangiare da solo in un angolo del ristorante. Gli attori hanno anche la cialtroneria. Per cui Servillo come si è comportato secondo me nei confronti di quella giornalista? Cioè, come si è comportato Servillo nei confronti di quella giornalista? Cioè, si è comportato male come uno smargiasso? Malissimo, perché poi, sai, da una parte stai a rompere i coglioni ai giornalisti perché ti mettono la fotografia, perché ti parlino di te, perché facciano questo. Poi dall'altra parte ti mandano a fanculo, non è possibile. È un atteggiamento assurdo. Ma pensa di essere diventato l'attore più importante del secolo, del mondo, è per questo. C'è un po' di, no? È un po' montato? Si è montato la testa. Certo, perché ha un successo straordinario, forse eccessivo, come ho scritto io in un'intervista che mi hanno fatto. Scusa, Pasquale, ma io voglio capire una cosa: ma per vincere un Oscar bisogna qualche volta mungere, oliare qualcosa oppure no? Ti racconto quello che fece Vittorio Cecchi Gori per vincere l'Oscar. Mi ricordo con Mediterraneo, partì con una valigia con $500,000 in dentro. Cioè? Perché? No, mica non ha corrotto nessuno. Però faceva le proiezioni, perché questi film dell'Oscar all'epoca, adesso ti mandano la cassetta, il DVD. Ma che servivano allora quei soldi allora, scusa? Scusami? A che servivano quei soldi allora, Pasquale? A fare proiezioni del film in tutti gli stati. Vabbè, un po', ho capito, ma allora servono pure i soldi per ottenere poi il successo finale, o no? Ma certo che servono soldi. Cioè, bisogna comprarselo l'Oscar? Se tutto si compra, dai. E Sorrentino? Chi? Sorrentino, il regista. Ma Sorrentino ha un vantaggio, quello che Qual è? Ho detto di lui, che ha fatto un film tradizionale, molto ben fatto, già quando aveva fatto il Divo, che io non condividevo a livello di contenuti, sì, però era molto ben fatto, c'ha uno stile, una classe, cioè è uno che sa fare il cinema. Il giorno che troverà anche un testo, una sceneggiatura adatta a lui, farà un capolavoro, perché sa girare un film, conosce la sintassi cinematografica, conosce le regole, conosce i colori, conosce la recitazione. Solo che del film, quando esce, non te ne frega niente, perché ma se tu rifletti bene, il film è di scuola italiana, è Visconti, non è tutti hanno. Però scusa un attimo, vorrei capire dal punto di vista politico, lui è, come dire, ben carrozzato, no, Sorrentino, no? Come dal punto di vista politico? Ha delle, no, è aiutato o no? Ma certo che ha aiutato, tu, questi hanno speso per questo film milioni e milioni di euro, ti pare che poi non l'aiutano? Ma sì, sì, è commedia, certo, no? che ha fatto il film. Sì, sì. A Benigni, che ha fatto il film e ha vinto 3 Oscar, con me, sempre con Berlusconi, l'hanno aggredito da tutte le parti, insultato. Questo, quello era un altro film. Ha fatto la stessa cosa. Cioè, una stampa amica, dici tu? Una stampa amica non credo, perché... Tutti quelli che mi hanno intervistato hanno detto: ma c'è qualcosa che non le è piaciuto nel film? Cioè volevano a tutti i costi farmi dire che questo film era... sai, io a metà film mi sono un po' addormentato, devo dirti la verità. Anch'io, però il film è ben fatto. Sì, no, non c'è dubbio. Senti, l'ultima cosa, Pasquale, ma tu che sei uomo del sud, eccetera, questa lega che si scatena sulla Chieng e altre cose ancora, ti piace oppure ti fa schifo? Ti fa schifo la Lega, a te ti fa schifo? No, a me non mi fa schifo la Lega, anzi, però ti dico una cosa, siccome con te si può dire veramente tutto, la verità. Sì. Io sono stato in Padania 4 anni fa. Padania, insomma. Perché volevo capire. Io lì ho incontrato immigrati che lavorano lì, con la casa lì, retribuiti regolarmente, che si muovono con la stessa mentalità dei leghisti. Però, come mi diceva un mio amico del Post, un giornalista, dice: guarda che questi sono diventati peggio di noi, se trovano una carta per terra si incazzano come iene. Cioè quelli che si integrano alla fine sono anche loro contro i clandestini, eccetera eccetera. Chi? Quelli che si integrano, dico, gli immigrati che si integrano. Sì, è vero, hai ragione, però bisogna essere realisti, no? Questi più di 200 posti di lavoro non possono dare, però quelli che danno sono seri, sono veri, sono... Ma come fai? Noi abbiamo, guarda, una situazione spaventosa. Io stamattina parlavo con un amico giornalista. Per cui la Lega è razzista, sì o no? Certo che lo è. Lo è? Ma perché? La Chiesa non è razzista, ma perché i comunisti non sono razzisti, i fascisti non sono razzisti? Che significa razzista? Cioè, ma in tutti noi, in tutti i partiti alla fine c'è un po' di razzismo. In tutti noi. Ma tu dici a me napoletano, io ho fatto un film sul razzismo che c'era a Torino quando prendevano gli operai meridionali e poi li tenevano fuori e ritengono ancora fuori dalla città. Ma che stiamo scherzando? Fermo lì! Ambulanza, Parenzo, quartierone, vieni avanti, cretino! No, ok, ci sono, calmo. Parenzo, va a cena con Razzi? È un mese che accumulo, fa schifo Parenzo, hai capito Parenzo? Fate schifo tutti, non ci vuole un cazzo a sparare sulla Croce Rossa! David? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Non capisci un cazzo! A parte che anch'io sono per l'eliminazione immediata di Parenzo, Parenzo, fai ridere! Sì, vabbè ragazzi, però dai! Maurizio da Ferrara! Sì, ciao, buonasera! Sono rimasto poco fa bloccato da quella persona che stavi intervistando. Sì, sì. Parlando di quel problema del sesso, delle ragazzine. Sì. Ma ti ho sentito un pochettino bloccato. Beh sì, anch'io sono rimasto un po' basito, devo dire la verità. Sì, Maurizio, è vero. Cioè, è un po' esagerato. Conosco cosa sta dicendo la letteratura scientifica sul fatto dell'avanzamento dell'età sessuale. Però insomma non esageriamo, 12-13 anni è un discorso che va interrotto immediatamente. E adesso lo faccio risentire, tra l'altro era Pasquale Squidieri, regista, il quale dopo alcune dichiarazioni che ha fatto Daniela Santanchè sulle donne, che secondo lei le ragazze non devono darla così letterale, la Santanchè ha detto una cosa molto pesante, esattamente l'opposto di quello che ha detto la Santanchè. Che cos'è che l'ha colpita, Maurizio? Sì, detto così ed è perfettamente il contrario, è quell'età. È che è vero, che è vero che è molto calda, è verissimo, ha ragione, ma è perfettamente il contrario, cioè quasi c'è da dare da ragione alla Santanchè, che mi viene già difficile dirlo, cioè quell'età che si sta abbassando sempre di più al sesso, sì, va discussa molto meglio e non il contrario. Portateli avanti, come diceva questo Pasquale, dovrebbe essere un regista. Sì, sì, Pasquale Squidieri, ma risentiamo quello che ha detto. Ok. Ma quindi il problema non è darla, il problema è prenderlo. Se non lo prendi non cresci come donna. Io ho tre figlie femmine, sì, e quando avevano 10, 12 anni, 13 anni, cioè ancora vergini siete, ma insomma è una vergogna. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito. Non c'è niente da aggiungere, mi sembra, no? No, no, ma non ci crede che lui gliel'abbia detto. Non ci oh, ragazzi, però questo ha detto, io ovviamente mi dissocio dalle parole di Squidieri. Ma assolutamente sì, lo spero, anche perché hai menzionato una tua figlia di 8 anni e mezzo. Cioè. No, ma poi al di là del fatto che lui ha parlato poi di educazione sessuale, di altre cose, che è giusto, questo va tutto bene, per carità, sì, però sì, l'espressione è questa, è giusto prenderlo, anzi, dicevo alle mie figlie 10, 12, 13 anni, vabbè, lasciamo perdere, dai. Titoli del TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Sulla legge elettorale e le riforme, centristi e alfaniani chiedono un accordo di maggioranza, altrimenti il governo rischia. Il ministro Quagliariello, ospite del TG3, sarebbe stato fissato per domani l'incontro tra Renzi e Berlusconi. Il leader PD deciso ad andare avanti nonostante i malumori nel partito e nella maggioranza. Contro di me un complotto e un linguaggio mediatico, un linciaggio mediatico. In un'aula della Camera semideserta, l'autodifesa della ministra Di Girolamo, assente Letta. Per la Banca d'Italia l'economia migliora, ma la ripresa sarà modesta, disoccupazione ancora alta per 2 anni, il commissario Ren, fiducia nell'Italia. In Liguria, per le forti piogge, una frana colpisce lateralmente un treno facendolo deragliare, sfiorata la tragedia, 2 macchinisti feriti, illesi passeggeri. Non siamo stati avvertiti né coinvolti, così protestano i sindaci della piana di Gioia Tauro, Palazzo Chigi in quel porto, già trattati i materiali più pericolosi. Il Ministero degli Esteri israeliano convoca gli ambasciatori d'Italia, Francia, Gran Bretagna e Spagna per denunciare posizioni costanti a favore dei palestinesi. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Avviso per i naviganti? È sparito Parenzo, eh? Non vuole venire stasera, non vuole venire. E adesso ci scateniamo contro di lui, ci scateniamo. Ma dai, basta Parenzo, cioè tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda. Ma va a cagare, detta in termini, va a cagare! Ma come si fa a stare accanto a una persona così? Ma che mondo è questo, ma in che cosa sei riuscito a trasformarlo se non vuoi vedermi intorno? Francesco da Enna, buonasera. Ciao cugino, buona serata. Ciao, ciao. Come dire, sono schifato, sono incazzato, sono deluso da te, una trasmissione così bella. Portiamo dentro questo tipo di ospiti che... Ma scusa, abbi pazienza Francesco, io non è che volevo farlo parlare del sesso da 10 anni. No, nessuna giustificazione. Ma non nessuna giustificazione per che cosa? Cosa c'è? Affanculo, e spero che ci sia finalmente qualche magistrato che piuttosto che occuparsi delle scopate legittime di Berlusconi si occupi di questo stronzo di merda, perché trattasi di questo, e che lo arrestino domani mattina. Ma perché cosa? Delle... Perché cosa lo dovrebbero arrestare, scusa? Adesso perché? Non esagerare, lo dovrebbero arrestare. Ha detto una minchiata, secondo me. Ha detto una cosa sguaiata. Poi ha detto anche di aver fatto sesso con una 13enne. Ma era evidentemente si poteva all'epoca. Non solo, scusami, Cruciani. Non solo ha detto che ha fatto sesso con una 13enne, ma lo ha anche consigliato come se questo fosse un modo per crescere. Sì, sì. È vero, ma è una cosa orribile. È una cosa terribile. È una cosa che è un'istigazione a fare sesso a 13 anni a delle bambine che forse le sue figlie sono troie. Io non lo so. Sicuramente no, veramente 10 anni in realtà. a 10 anni addirittura, e lui gli insegna queste cose. Ora io ho figli, per fortuna ho figli maschi da questo punto di vista. Ma io non c'entro nulla, però abbia pazienza, Francesco. No, cosa c'entro io? Ma stato lì a far finta di niente. Ma no, come gli ho detto, ma ho detto che ha detto una cosa gravissima. Cosa devo dire? Posso apprezzare pure la Sant'Anche ieri sera, cioè io vi seguo ogni sera, alla fine hanno ragione loro, cioè hanno ragione la Sant'Anche, cioè state sbagliando tutto. E ma lasci perdere adesso la Sant'Anche, lasci perdere la Sant'Anche. Allora, restiamo su Squitieri, che provocato da me sulla Sant'Anche, cioè si immagini lei se io potevo solo pensare lontanamente a una risposta del genere, ma non c'è nulla di preparato, non c'è nulla di... Adesso però replica immediatamente. Ma ho replicato! Replicando tutti quanti quelli che hanno anche malfunzionamenti mentali come lui a fare quelle cose che ha fatto lui, che mi fa soltanto vomitare. Io ero in autostrada che rientravo da Catania, ti giuro mi sono messo di lato. Sì. E sono di un nervoso incredibile. Ho capito, Francesco, ma e bisognerebbe immediatamente togliergli la potestà a un padre che fa queste cose con le figlie, perché fare queste cose con le figlie è terribile anche per queste povere bambine, se è così. Ho capito. Togliergli immediatamente la potestà e togliergli il diritto di esistere e di parlare in radio in questo modo, e tu dovevi essere tranciante come sai esserlo. Ma guarda che io gli ho detto subito, hai detto una cosa pesante, hai detto una cosa pesantissima. Lui ha detto no, no, no, poi ha parlato della sua cosa di 13 anni, a un certo punto volevo farlo parlare. No, Cruciani, no, Cruciani, devi essere tranciante. Vabbè, come ma che tu. Devo dire, scusa, abbi pazienza, Francesco, uno che dice una bestialità del genere, oppure attonito, stupito, cioè uno che dice una cosa di questo tipo, che le ragazzine di 10 anni per crescere devono fare sesso, ho usato anche un modo edulcorato, no? Rispetto a quello che ha detto lui. Ma un cazzo, cioè, tu sei bravissimo, fai la trasmissione, la fai benissimo, vieni la Sant'Angela Mastacchi, viene Tizio la Mastacchi e questo lo fai parlare. Questo fa veramente schifo. Io ti sto dicendo una cosa, io ho delle nipoti, sono due gemelline, oggi hanno 16 anni, se tu gli parli di sesso, per fortuna ancora diventano rosse nelle guance, ed è una cosa dolcissima e bellissima. Vabbè, ma ho capito, ma io sono d'accordo con te. Ma sei d'accordo con me, però tu sei tu la in trasmissione che conduci. Gli e che dovevo fare? Ti dissociavi in maniera formale e lo mandavi a fanculo. E se c'è qualche magistrato che ascolta, perché ascoltano in tanti, quella è un'istigazione a fare dei reati, secondo me. Vabbè, vediamo. Grazie Francesco, grazie. Ti voglio bene. Ciao, buon ciao. Lavoro. Roberto ciao. Da Novara, Roberto. Buonasera, sì. Diciamo che anch'io ero molto seccato per quello che per il tipo di condizione. Però ha già detto tutto il signore precedente. Sì, ma ragazzi, però dovete stare calmi, però. Dovete stare calmi. C'è uno che dice una cosa del genere. Mi ha spiazzato, ma che cosa devo fare? Dire sei un coglione, una testa di cazzo, cosa devo fare? Per l'amor del cielo, ci sta. Io faccio una premessa, mi piace molto di più la trasmissione quando la conduce lei di quando la conduce un altro. Sarà vabbè, ma questo che c'entra adesso? Ma non c'entra niente, dai, non c'entra niente. Però quando uno dice una roba del genere con mia figlia, fortunatamente, cazzo, ho spento subito la radio. Vabbè, dunque... Ha già replicato l'altro signore, per cui dico solo una cosa, velocissima, dopodiché lascio il disturbo. Al signor Parenzo... molto di comunista, di sinistra, tutto quello che vogliamo, se qualcuno chiede indietro i soldi dei 5 Stelle, perché 20 anni fa qualcuno ha votato per non dargli i soldi ai partiti? Solo quello. Vabbè. Perché se lo mette in testa che non sono proprio cazzati quando uno gli chiede indietro i soldi. Vabbè, non li chiederanno mai indietro, ma se ne devono andare fuori dalle banche. Ma no, ma dare indietro i soldi è ridicolo, dai, su, è ridicolo dare indietro i soldi, non c'entra nulla. Però qualcuno l'ha votato, per cui uno dovrebbe anche capire... Cazzo, è stato votato un qualcosa e questi hanno fatto tutto il contrario. Va bene, un attimo solo. Enrico da Reggio Emilia, Enrico. Buonasera, Cruciani, ascolti. Sì. Io mi allaccio ovviamente al discorso che hanno fatto prima i colleghi ascoltatori. Io penso che quando una persona entra in chiesa può fare, tra virgolette, di tutto, ma non può permettersi il lusso di bestemmiare. Per cui o il prete o la comunità che è all'interno della chiesa, sicuramente qualcuno interviene. La dunque? Sua trasmissione io la considero come quasi un qualcosa di religioso. Lei beh, per me è il prete, noi scusi, siamo la comunità. Aver sentito il signor Paolo Pasquale, pardon, il regista, sì, dire delle obrobrietà come quelle che ha detto è veramente inammissibile. Io ma penso, è inammissibile, no? Che cosa, scusi? È inammissibile che cosa? Le ha dette, non è che gliel'ho fatte dire, le ha dette, le ha spiegate, so, gli ho detto che era una follia. Abbiamo sentito lei. Ho capito, maniera, ma che dovevo fare? Maniera, in maniera elegante o meno, in base al, diciamo, al suo registro che contraddistingue anche la sua trasmissione, avrebbe dovuto, e questo è il vero, è la vera trasgressione, avrebbe dovuto dire, signor Pasquale, ma ho detto, per cortesia, ma ho, de- non, ma no. ho detto, gli ho detto a un certo punto, io ho una figlia di 8 anni e mezzo, non è che tra 2 anni gli dico che come deve fare sesso e che si deve sbrigare a fare sesso, glielo ho detto chiaramente, ma più di questo che devo fare? Devo impiccarlo, che devo fare? Ma abbiamo assistito ad uno stupro radiofonico. Vabbè, non ragazzi, possiamo, che devo dire? Impiccatemi, dai, su, che devo fare? Uno stupro radiofonico, l'ha fatto Squiglieri, non l'ha fatto il sottoscritto. È una frase, adesso ve la faccio riascoltare. So che qualcuno sarà contrario e diranno che lo faccio per l'audience, che lo faccio per aumentare gli ascolti, eccetera. Le frasi orribili, dopo la borsa, le frasi orribili di Pasquale Squiglieri qui alla Zanzara. Le frasi terrificanti, dico io. Poi qualcuno mi scrive, non ha detto niente di scandaloso. Vede che il mondo è vario, A chi la do? Stasera io faccio quel che vuoi, dimmi che primavera. Allora, cari ascoltatori della Zanzara, è scoppiato un nuovo scandalo qui. Un altro mi scrive, quando vuoi il collegamento lo chiudi, profondamente deluso e schifato. Caro ascoltatore, il problema non è quello, ho invitato Squiglieri per parlare della grande bellezza e poi c'era questa frase della Sant'Anchè da cui tutto è iniziato e che fra poco ascolteremo, e dopodiché ha fatto tutto il ragionamento suo sull'età del sesso, restano le parole che ha detto all'inizio. Non ho interrotto il collegamento, non mi pare uno. Non mi pare una cosa da... no. Però fate voi, se mi volete crocifiggere fate pure, non è un problema, sono qui a prendere le pietre, Chiamate almeno, no? Tutto è nato da questa frase della Sant'Anchè, ieri qui alla Zanzara. Io ti vorrei dare questo messaggio. 4. Alle ragazze e alle donne, che molto si ha molto più godimento e soddisfazione a non darla. A non darla. Cioè, il consiglio alle giovani di oggi, non datela. E ricordatevi che la fedeltà è un valore straordinario. Non datela, il messaggio perché è questo. Perché è così bello. Allora, Squiglieri, Pasquale Squiglieri, regista, anche una certa età, anziano regista, risponde in questo modo. Sentiamo, questo è il punto. Ma quello, il problema non è darla, Il problema è prenderlo. Se non lo prendi non cresci come donna. Io ho 3 figlie femmine, e quando avevano 10, 12 anni, 13 anni, cioè ancora vergini siete, ma insomma è una vergogna. Avevano 10, 13 anni. 10, 13, 12, sì. E che gli hai detto? Che erano ancora vergini? Che era una disgustosa questa cosa, che fossero ancora vergini. Quale piccole, tu prendi una ragazza di 12-13 anni, non è più come all'epoca mia, che sono vecchio, rincoglionito. Oggi una ragazzina di 12-13 anni ne sa più di chiunque altro, con tutto quello che ha a disposizione. Questo, di informazione. Questo può darsi, però non è che mamma uno dice... Mamma mia, fanno paura. Tu sei mai stato con una minorenne? E come no? Io ho sposato una minorenne nel 1965. Sì, ma... stava con me da quando era 13. Cioè, tu hai fatto l'amore con questa che aveva 13 anni? Esatto. Ma e tu quanti ne avevi, cosa... tu, scusa? 22, 21, 22. Ma cioè, è una specie di reato questo qua, scusa Pasquale. Ma certo, ma certo. Come certo? Ma noi viviamo nel reato, scusa, ma perché? Vittorio da Forlì, eccoci. Allora senti, intanto è incredibile come ci siano tanti ascoltatori che non sanno chi è Pasquale Squiglieri. Ma vabbè, quello è un altro discorso. Vabbè, Pasquale Squiglieri è, mi sembra, non so, l'attuale marito di Sofia Loren, o forse divorziata, non so. Comunque è un regista di destra, fascista. Vabbè, di destra, fascista, noto, non esageriamo. No, sì, vabbè, comunque adesso non hai capito qual è stato il tuo errore. Il tuo errore non è stato, come dicono tutti gli altri ascoltatori, di non aver buttato su, ma di aver cambiato discorso. Tu non potevi metterti a parlare di la grande bellezza quando avevi di fronte a te uno che faceva quelle dichiarazioni, doveva affondare il coltello e invece ti sei cacato in mano. Ma figurati. Non hai avuto il coraggio di andare avanti e chiedergli quante se ne era trombate di ma Milo l'ha Eri. Detto una. Anche adesso. L'ha detto no, una. No, l'ha detto bene, una. Perché lui ha detto. Vabbè, che lo aveva fatto anche dopo. Vittorio. E nel 75. Vittorio, nel 75, se tu mi devi insegnare questo mestiere. Se tu mi devi insegnare questo mestiere. L'ha detto lui che era reato. Sì. L'ha detto lui che era reato. Se tu mi devi insegnare certo, questo mestiere. Era già reato. Tu devi continuare a parlare di quello. Se non tu, ma quello sono affari miei. Quello di cui parlo sono affari miei. Hai buttato pubblicità e ti sei cacato in mano. Ma figurati se mi sono cacato in mano di affrontare questi discorsi. Ma che dici? Ma non è. Vedi, quando parli delle puttane di Vittorio, Berlusconi, Vittorio, si può fare tutto. Ma figurati, tutto, guarda. Si può fare tutto, adesso si può fare tutto. Però di fronte alle cose veramente quelle cosa? Che scottano, ti sei cacato in ma mano. Ma figurati se mi sono cacato in mano di cosa? Ma che dici? Ma di cosa, hai avuto ma di cosa stai parlando? Discussione. Chiedilo, ma chiedilo. Ho avuto paura di che, ma se vuoi lo richiamo adesso Mughini, ci riparlo. Smettila. Mughini. Ma smettila. Ma smettila non che c'entra Mughini. No. Hai peccato, non hai le palle. Sì, non ho le palle, non ho le non palle. Hai le palle. Invece ce l'hai tu, ce l'hai tu le palle, invece ce l'hai tu. Di fronte uno così. Ma che avevi di fronte? Ma che lezioni vuoi dare? Ma che lezioni vuoi dare? Sulla grande bellezza. Ma ci sono stato 10 minuti su quello. Ci sono, lo sai che sarebbe su. Lo sai. Grande bellezza. Senti Vittorio, non mi dare lezioni. Non mi dare lezioni, imbecille. Capra, ma capra, falla finita, imbecille, capra. Cretino, cretino vuole dare lezioni a me su come fare l'intervista, sono stato 10 minuti su quella cosa, se avessi insistito su quella cosa, con i dettagli, con i particolari, sarebbe successo esattamente, sarebbe successo l'inferno, mi avrebbero sbranato, hai capito o no? Sentire adesso. Hai capito o no? Hai capito o no? E ti sei messo a parlare. Ma smettila, imbecille, smettila. Insulta. Poveraccio, ma quale insulta? Perché tu. Ma che ho sbagliato? Ma falla finita. Quando sbaglio lo dico apertamente. Ma smettila. Se avessi insistito. No, non ho sbagliato. Perché se avessi insistito a parlare di quello, di come lui pensa di educare i bambini di 10 anni, 12 anni, 13 anni, se avessi insistito sui dettagli dei suoi rapporti con una tredicenne, mi avrebbero fatto un mazzo così, hai capito? Non hai capito niente, imbecille. Non hai capito. A te ti avrebbero elevato giornalista dell'anno. Ma falla finita, cretino. Non c'è bisogno. Non ho bisogno di questo. Non ho bisogno di questo per essere elevato, hai capito? Non ho bisogno di. No, non ho bisogno. E non lo bastoni. Ma figurati. Ma smettila, cretino. Parlando di cinema. Vabbè, sei un poveraccio, dai. Non è successo nulla. Sì, non è successo una cosa grave che ha detto. È successo una cosa grave che ha detto, punto. Punto. Bene, dovevi continuare. Ma quello sono affari miei. Quello sono affari miei. Lascia perdere, sono affari miei. Allora ci sono affari tuoi. Ma queste cose fagli al bar, non alla radio. Ma figurati al bar, questo è anche un bar, non hai capito niente. Ma no, di che parli? È solo un bar. Vabbè, ma quello, perché l'ascolti? Allora, perché l'ascolti se ti fa schifo? Perché l'ascolti se ti fa schifo? Spiegami. Non sto dicendo questo, sto dicendo perché che lo ascolti se ti fa schifo? Perché lo ascolti? Perché ma lo ascolti? Ho detto che è un bar, non è una trasmissione. Ogni tanto nei bar si cambia, bar. Nei bar si cambia discorso ogni tanto, capito? Si passa da un discorso all'altro, hai capito o no? No, è così. Dai, è così, è così. Infatti gli ascoltatori sono tutti d'accordo. Benissimo, con te, ma benissimo, non ti preoccupare, ma io accetto le critiche. Accetto non le critiche. Ho una telefonata d'accordo con te. Ma d'accordo con me su che cosa? La prossima dà ragione a me. D'accordo, su. Ma su che cosa? D'accordo, sul fatto che devo continuare a intervistarlo sul sesso. Sul sesso discorso. Hai già, io non ho cambiato, no, di, io ho cambiato discorso perché mi sembrava che su quello fosse chiusa la discussione. Ma chiusa, chiuso? Uno che chiusa. Dichiara ha dichiarato, bambine, punto. Tu lo chiudi? Ma infatti l'ho chiuso, gli ho detto. Senti, amico mio, senti, amico mio, l'ho chiusa la discussione in maniera molto, molto chiara, semplice. No, no. L'hai chiusa cavallerescamente, hai cambiato discorso. Vabbè, Mario pubblicità da Padova. Vabbè. E si cambia discorso. Ciao Vittorio, Mario da Padova. Oh, volevo la telefonata a favore della cosa, eccola qua, eccomi qua. No, io non c'è nessuna. Qui non dilottiamo le telefonate, non dilottiamo le telefonate. No. Io semplicemente voglio dire, vorrei dimensionare un po' tutto questo caso che è nato. Stiamo parlando di una persona di 75 anni che ha vissuto nel mondo dello spettacolo, ha fatto una dichiarazione di cose che risalgono almeno a una cinquantina d'anni fa. Io non mi scandalizzerei così tanto per quello che ha detto, forse il fatto di per sé di una di 10-11 anni è un po' poco, però chi non ha 13 anni, 14 anni alla scuola media non si rendeva conto. Adesso stiamo parlando, io l'ho fatta 20 anni fa e già c'erano queste cose, cioè ridimensioniamo un po' una persona di spettacolo. Beh, un esemplare, scusa, una, Mario, però ha preso con le pinze, sì, quello che ha detto, sarà, non si può prendere letterale. Ho capito, Mario ha detto due cose. La prima è che bisogna insegnare, lui alle sue figlie di 10, 12, 13 anni diceva di fare sesso per crescere, primo. Poi ha usato parole, ha usato vergognare di questo, ho capito, ha detto questo, ha detto questo punto, prima cosa, ecco. Seconda cosa, ne ha detto anche un'altra, ha detto che lui ha fatto, ma la cosa credo che sia nota tra l'altro, non credo che sia un mistero, ha fatto sesso una volta quando aveva 23 anni con una ragazza di 13, con una ragazza che è diventata sua moglie, che poi è diventata sua moglie, e ho detto ma quello è un reato, io ho detto sì, bene, viviamo tutti nei reati, ma così 50 ha detto, anni fa non era un reato, non lo so, poi lui dice di sì, ma io che ne so, c'erano i matrimoni riparatori, c'era anche il delitto d'onore, c'erano tutte queste cose, stiamo parlando di un'altra realtà, questa persona ovviamente ha vissuto in un ambiente molto non so come dire, diverso da quello in cui viviamo noi oggi, per cui tra l'altro persone dello spettacolo, la storia che ha raccontato Mastroianni, proprio un esemplare, la rappresentazione della grande bellezza, proprio lo è, di quegli anni lì, di quegli anni che Roma ancora si ostenta a tentare di voler portare avanti, che non esistono più, è questa cosa, cioè le parole di questa persona, di questo grande esponente tra l'altro Mario, a me ha colpito solo una cosa, no? Il suo racconto successivo, sono stato con una di 13 anni, era illegale eccetera, quello vabbè, ha confessato una cosa non so quanto nota prima eccetera, ha colpito il fatto che di fronte alla frase della Santanchè lui ha detto no, invece al contrario, per crescere bisogna prenderlo, e parlava poi esplicitamente delle sue figlie 10, 12, 13 anni, fra poco lo facciamo riascoltare, molto chiaro, terribile, ma gliel'ho detto, ha detto una cosa terribile, gliel'ho detto subito, ma che devo fare, insistere su quello, chiedere i particolari di che cosa, particolari di che poi? Ma io sono d'accordo su come l'ha vista lei, ha no, fatto ma po', che devo chiedere? Andare, allora poi che è successo alle sue figlie? Cosa è successo alle sue figlie? L'hanno fatto poi? L'hanno seguito questo consiglio? Può darsi, non lo so, mo lo richiameremo. Andrea da Treviso. Luciani, buonasera. Dimmi. Niente, allora io mi dispiace per la confusione che sta nascendo, perché mi dà l'idea che ci stiamo spostando un po' il focus, che non è tanto la dichiarazione di un artista, quale può essere questo regista, quanto il fatto che sta mettendo in evidenza un fenomeno che, come dire, noi discutiamo delle parole che lui ha fatto, non stiamo discutendo del fatto che in realtà questi tredicenni oggi purtroppo hanno accesso a delle informazioni che una volta non c'erano, e quindi sono sottoposti a tentazioni che ben manipolate da altri potrebbero portare poi a sfruttamenti o comunque situazioni brutte, che poi è lo scandalo che genera questa intervista, però, scusi, che lei ha fatto. Non ho capito niente, vada al sodo. Se no, altrimenti, Andrea, qual è il punto? No, capisco. Squiteri, no, ha detto, i ragazzi hanno rapporti anche a 13 anni, 14 anni, sono molto cresciuti da questo punto di vista. Vabbè, una cosa banale, la palissiana, molto scontata. Dopodiché, quello che ha detto di terribile è il fatto che lui, lo devo ripetere ancora, risentiamo, avanti, forza. Ma quindi il problema non è darla. Il problema è prenderlo. Se non lo prendi non cresci come donna. Io ho tre figlie femmine, sì. E quando avevano 10, 12 anni, 13 anni, cioè ancora vergini siete? Ma insomma è una vergogna. Avevano 10, 13 anni? 10, 13, 12, sì. E che gli hai detto? Che erano ancora vergini? Che era una disgustosa questa cosa, che fossero ancora vergini. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito. No. David non cercava di fare lo stupido, è uno stupido. La voglia ce l'ha. Ma sul torpedone non si menano mai, Parenzo. Ma secondo me è un bel gavettone, qualcosa. Perché sicuramente sarei pure un po' maleodorante. La voglia ce l'ha. Allora, grandi polemiche per alcune affermazioni di Pasquale Squitieri qui alla Zanzara. Alcune affermazioni che riguardano il sesso, le minorenni, le sue figlie, insomma, le parole le avete sentite tutti. Se qualcuno non l'ha sentite, magari più tardi ancora le rimetteremo, ma non è che le rimetto perché la gente interviene su questo, magari c'è chi non l'ha ascoltato o chi si mette in ascolto in questo momento. È con noi Gianni Vattimo, buonasera, stavo aprendo la porta perché mi ero dimenticato. Come andiamo? Stasera sono da solo, non c'è... Beh, sì, meno male. Non c'è il cialtrone qui, non c'è l'ebreo. Non dico solo. Non sarà mica musulmano anche. No, musulmano no, non c'entro niente. Io musulmano proprio non c'entro, sono italiano. Va bene. italiano. Senta, a proposito di italiani e no, adesso andiamo su un'altra cosa prima di affrontare la questione Grillo. La questione è, secondo lei non c'è un eccessivo nazionalismo, patriottismo in questa vicenda dei Marò? Cioè tutti chiedono, lei è europarlamentare, ancora dell'Italia dei Valori. Trovo che è brutto lasciare due soldati italiani che erano tra l'altro in una missione ufficiale del governo, non erano due italiani qualunque che andavano per l'India. Cioè l'incertezza, tutto. L'incertezza è negativa, vabbè, questo siamo d'accordo. Sì. Però se hanno ammazzato qualcuno? Se hanno ammazzato qualcuno dipende da dove è successo. Certo, io non sono particolarmente anti-indiano, ma non sono neanche... Soprattutto se penso che tutto questo dipende dal fatto che ci sono le elezioni in India, che ci sono dei partiti che devono... insomma, per carità, non so cosa dire. E quindi il principio fondamentale, oltretutto se rischiano la pena di morte, bisogna tirarli fuori a tutti i costi. Mi è un po' nazionalista su questo, attimo. No, non nazionalista, però insomma, mi sembra... Oltretutto poi pare che uno dei posti più corrompibili e corrotti dal punto di vista... economico, Bustarelle, eccetera, sia l'India, questo non lo so io. Senta, le faccio ascoltare una frase che ha detto Squitieri, su cui si sta scatenando il casino, qui alla Zanzara, sul sesso e i minori. È una frase molto forte che riguarda il rapporto tra lui e le sue figlie. Sentiamo. Ma quindi il problema non è darla. Il problema è prenderlo. Se non lo prendi non cresci come donna. Io ho tre figlie femmine, sì. E quando avevano 10, 12 anni, 13 anni, cioè ancora vergini siete? Ma insomma è una vergogna. Avevano 10, 13 anni? 10, 13, 12, sì. E che gli hai detto? Che erano ancora vergini? Che era una disgustosa questa cosa che fossero ancora vergini. Mettetemene un'altra. Tu sei mai stato con una minorenne? E come no? Ho sposato una minorenne nel 1975. Sì, ma... stava con me da quando aveva 13. Cioè, tu hai fatto l'amore con questa che aveva 13 anni? Esatto. Ma, e tu quanti ne avevi tu, scusa? 22. Ma cioè, è una specie di reato questo qua, scusa Pasquale. Ma certo. Ma noi viviamo nel reato, scusa, ma perché? Bomba di Spitieri che poi parla del fatto che oggi ormai l'età si è abbassata, che a 13 anni sono sveglie, eccetera, eccetera. Lo condanniamo o no? Battimo. Dipende, io a dire la verità lo condanno solo, lo possono condannare solo i giudici. Come dice il Papa, chi sono io per giudicare Spitieri? Però se c'è una legge che glielo vieta, è bene che lui non... No, d'accordo, ma quando dice che lui alle figlie di 10, 12, 13 anni diceva che dovevano fare sesso, adesso ho usato altre parole perché altrimenti non crescevano, lei che dice di questo? Non saprei, devo dire che il problema è che se crescono troppo in fretta in una società in cui tutte le loro compagne non crescono, diventano delle piccole puttanelle. Ma lei ha fatto sesso a che età per la prima volta? Ma per carità di Dio, non parliamone nemmeno. Ma l'ha fatto una volta a un'età, cioè a 15 anni, a 16 anni. Lei è mai stato con donne, dato che è omosessuale? Beh, adesso questi sono cazzi miei. Questo, come sempre, noi sa che andiamo a puntare sempre ogni tanto su queste cose. Infatti voi dovete imparare a non rompere le palle. Questo anche è vero, però sarà stato con una donna in vita sua. Molti omosessuali che poi sono cazzi suoi, giustamente, vabbè, per carità. Come è finita questa storia di Grillo? Perché innanzitutto ma lei la racconti come la racconto così. Lei a un certo punto ha dichiarato di voler diventare il primo europarlamentare dei 5 Stelle sia nell'attuale Parlamento Europeo e candidarsi poi alla successiva legislatura adesso con le elezioni di maggio. Prima cosa, aderendo al Movimento 5 Stelle. C'è stato un tentativo di colloquio con Grillo che poi è riuscito molto, come dire, difficoltoso, e poi lei è riuscita a parlare con Grillo. Che cosa vi siete detti? Io gli ho detto che volevo rimanere in politica e che non vedevo possibilità per me se non nel senso che non voglio assolutamente avere niente a che fare col PD e con i partiti di regime, e quindi che l'unico partito in cui avevo qualche speranza di poter essere eletto, se potevo entrarci, era il suo. Perché il partito di Di Pietro, che pure è il mio partito ancora adesso, non ha delle chance di riuscire. Non esiste più, diciamo, l'Italia dei Valori non esiste più. Non esiste, esiste ancora, nel senso che c'è ancora un gruppo parlamentare in Europa di cui io faccio parte, siamo in tre. Sì, però come partito ormai è finito. Come partito, ma finito. Unito non ci, che non lo credo, spero che non muoia del tutto. Certo, il vero problema in Italia, soprattutto per lo sbarramento degli sbarramenti, eccetera, è che la speranza del partito di Pietro in Italia dipende dalle sue, dai suoi rapporti con chi? Il PD. E i rapporti col PD sono stati stroncati brutalmente per merito e volontà di Napolitano. Questo è un altro discorso. No, però lei dice l'Italia dei Valori non ha nessuna chance di entrare al Parlamento Europeo, voglia andare con 5 Stelle. Vabbè, insomma, alla fine questo colloquio con Grillo come si era concluso? Perché poi lui concluso con lui che diceva bisogna però che rispetti le regole del partito. Io ho capito e credo che in quel momento anche lui pensasse a quello, non so se non sapeva che io ho già fatto 2 mandati oppure fingeva di non saperlo, non lo so. Io invece sapevo che c'era questa regola, ho anche pensato che potevano fare una piccola eccezione, nel senso che la prima volta che vanno al Parlamento Europeo che ci fosse uno che c'era già stato non era poi un male neanche per loro. Cioè un po' di esperienza, però quelli sono fissati con le regole, lo sa, cioè la regola è 2 mandati, lei ha fatto 2 mandati, arrivederci, grazie. Intanto però ma è una puttanata, questa regola di 2 mandati è una puttanata, diciamo. Non lo so, io lo trovo un po' una, non va applicata troppo, anche perché io non mi sento affatto un riciclato da buttare via. Ma perché quando si tratta di 2 mandati, in genere il principio è dopo 2 mandati questi deputati che tanto sono tutti figli di buona donna è meglio buttarli via. Ma io prima di tutto non sono figlio di buona donna. Due, non ho mai fatto delle cose per cui ho demeritato. Vabbè, è passato da un partito all'altro pure lei. Ma è stato... figuriamoci, i partiti sono passati da una parte all'altra. Io sono sempre stato un catto comunista, come voi sapete bene. Sì. E intanto il mio partito, il PDS, ha perso la S, eccetera, eccetera. E quindi, per carità. Poi Di Pietro non mi pare un partito di sinistra, diciamo, né catto comunista. Di Pietro invece era uno dei pochi partiti di opposizione e lo rimane ancora adesso. Ma lei è iniziato da Colazione Cattolica ed è finito a Grillo, cioè... passando per Cuba e altre cose. Penso a tutti quei altri che hanno cominciato con l'Azione Cattolica e sono finiti in vacca. Non mi sembra così. Lei una volta ha detto di essere un parassita della no-tab, dei no-tab. Certo, direi, perché una delle ragioni per cui mi sento affine a Grillo è che tutti quelli con cui ho fatto le ultime lotte politiche in Piemonte sono dei no-tav e anche alcuni di loro grillini. Ma insomma, adesso torniamo su una no-tav, ma lei questa telefonata con Grillo si chiude, no? Poi Grillo manda non so se si chiude, poi allora, ma come ha fatto innanzitutto a trovare Grillo? Perché è impossibile trovarlo per telefono, come c'è riuscito? Io infatti mi sono fatto non so se è impossibile. A un certo punto finalmente qualcuno mi ha dato un numero a cui ha risposto, però solo in ora di ufficio, perché questo c'è il telefono di sera, non rispondeva mai. Ha risposto uno che era un suo collaboratore, mi ha detto mi lasci il suo numero, lo dico a Grillo e poi io. Grillo l'ha chiamata sul cellulare. No, non mi ha chiamato lui, a dire la verità, mi hanno detto mandagli prima un'email, un messaggio dicendo che lo chiamerai. Io credo che mi abbia risposto, forse mi ha chiamato, non mi ricordo più, ma comunque tutta una roba che si è svolta l'altro ieri, se no giovedì, mercoledì sera. Ma nella telefonata che avete avuto le ha fatto capire il contrario? No, semplicemente questa faccenda non era emersa. Cioè l'ha presa in giro? L'ha presa in giro un po' Grillo? No, ma figuriamoci, non credo mica. No, è stata una conversazione abbastanza amichevole che anzi mi era piaciuta. Il problema vero è che forse lui o non sapeva, non si ricordava che io avevo fatto la domanda, però subito dopo gli ho mandato quel mio blog dove c'è scritto tutta la mia storia, eccetera. Quindi figuriamoci se Grillo può candidare uno come lei che ha già fatto 2 mandati, che ha una storia politica alle spalle così pesante. Secondo me sbagliano in questo momento applicare così rigidamente questa regola, sbagliano perché, ma quelli sono rigidissimi, figuriamoci quelli. Oltretutto, ma come si sono permessi allora di votare così duramente, fallendo, va bene, Rodotà alla Presidenza della Repubblica? Più mandati di Rodotà nessuno ne ha. Quello è vero, su questo le do ragione assolutamente. Infatti anch'io, se dovevano escludere tutti i politici, cominciassero a escluderli di lì. Quindi, anch'io all'epoca. Non mi sento del peso di Rodotà e non sono. Sì, però che differenza c'è tra Vattimo e Rodotà allora? A me non permettetemi di partecipare, che ne so, alle primarie, alle parlamentari, quelle che saranno, no? Secondo me infatti la platea dei grillini non è tutta così bieca. Cioè, sul web, secondo lei, avrebbe avuto consensi per essere candidato? Io sì, ne sono sicuro. Ma lo scrivono anche... ma anche perché il vero problema, però, diciamo la verità, è che alcuni dei deputati che, di cui so io, sono adesso al Parlamento, sono entrati nelle liste con 4-5 preferenze nelle primarie. Assolutamente, sì, nelle parlamentari. Certo. Come dire, allora, sì, non è che io ho fatto questo calcolo, però insomma un po' di voti sulla rete l'avrei preso. Senta un attimo, ha sentito del senatore del PD Esposito che ha trovato 3 Molotov davanti a casa? No? Io non so, io non ho gran fiducia in Esposito, ecco. Non ci crede? Ma non lo so, devo solo dire che quasi tutte le Molotov che vengono trovate in genere, a cominciare da quelle di Genova, il famoso Molotov di Genova, nessuna era stata messa dai Blood Black, le avevano messi i poliziotti. E qui in questo caso secondo lei è andata così? Ma no, non so, però devo dire che non mi spaventerei neanche tanto. Poi, naturalmente, siccome Stefano Esposito non ha niente da dire al mondo di politico, tranne questa roba qui, e vabbè, la deve enfatizzare al massimo. Cioè, secondo lei fa un po' la vittima anche su questa cosa? Ma credo bene. Non mi faccia parlare di Esposito, perché oltretutto Esposito, è un senatore Ope Porcelli. C'era un mio collega, professore universitario defunto purtroppo, Rosario Assunto, sì. E quando era venuta fuori una famosa legge, Ope Legis, in cui certi associati incaricati diventavano ordinari, lui diceva sempre: il mio collega Ope Legis tal dei tali. Ecco, io considero Esposito e i deputati eletti col sistema porcellesco. Vabbè, ho capito, ce ne sono tanti, non è che c'è solo Esposito. È tutto. Vabbè, se l'è messe da solo, ste Molotov, lei non si stupirebbe se se le fosse messe da solo? No, questo non lo so, non voglio dire questo, anzi smentisco assolutamente di averlo persino pensato. Non mi dà nessuna fiducia. Cioè non ci crede a questa storia qua, su, è molto semplice. Non ci credo, non mi sembra così grave. Ma come non è grave? Uno che gli piazzano 3 Molotov davanti a casa, a parte che lei dice dubito perché le Molotov le mette la polizia. Dubito che siano, che fossero pieni. Io, insomma, le Molotov che sono state attribuite ai notav finora erano solo Molotov poliziesche. E dunque anche queste potrebbero essere poliziesche? Non lo so, non mi commuove tanto. Secondo lei non è il fatto che lui sia viva, come dice, in un bunker, Fort Knox, ha messo la sicurezza, eccetera, lo trovo una cosa eccessiva? Non c'è nessun pericolo per lui, secondo lei? Ma no, che non ci sia nessun pericolo, no, perché c'è pericolo per tutti, compreso per me, che quando partecipo, ecco, per carità, ricevo delle lettere ispirate dal Mossad che dicono watch your ass. Ricordati la data dell'elenco di Golda, quindi watch your ass, stai attento a te, guardati alle spalle, cioè. guardati le chiappe. Però per dire, non so, mi sembra un po' eccessivo questa storia, fa parte di tutta una campagna di terrorizzazione, di legittimazione. Ho capito. Ma lo sa che in questi giorni la magistratura civile, naturalmente, di Susa, naturalmente, ha condannato Perino a pagare 191.000 euro di danni alla LTF. Ma se qualcuno ha sfasciato il cantiere, ha sfasciato il cantiere una mano, hanno impedito. Ma hanno fatto un po' di resistenza civile, lì ci poteva essere Gandhi. Hanno fatto un ma po' quale di Gandhi? Ma smettiamolo, ma sono dei violenti spesso che sfasciano i cantieri e rompono i coglioni alla gente. Ma lei non conosce Perino, ma andiamo. No, io non dico di Perino, ho detto chi sfascia i cantieri. Chi sfascia i cantieri? Ma non sfasciano nessun cantiere. Ho capito, allora perché gli hanno dato 190.000 euro per danni? Scusi? Perché fa parte di tutta un'azione della magistratura per criminalizzare il movimento. Ma è contento che Caselli ha lasciato la magistratura? No, io con Caselli non ho mai avuto, anzi ho avuto una... Beh, è stato minacciato dai notab, pesantemente, da alcune frange, da alcune frange. Ma quando mai? Gli hanno impedito di fare una presentazione in una libreria. Ma no, ma spesso arrivano messaggi di minacce. Ma i messaggi di minacce arrivano tutti, adesso arrivano persino a Esposito, che sicuramente... Cioè, secondo lei la scorta a Esposito è sbagliata? La che? La scorta che ha Esposito è sbagliata. No, la scorta a Esposito va benissimo, se la tenga, figuriamoci. Però insomma, adesso che faccia tanto la vittima dopo aver provocato in tutti i modi, sostenendo che Esposito riesce a sostenere che tutte le norme per fare la TAV sono state rispettate, prima di tutto l'osservatorio. Ma che è una provocazione, è un'opinione questa qua, è basata anche sui fatti. Ma perché lei parla di provocazioni? Perché che provocazioni fa Esposito? Non lo capisco che provocazioni fa. Provoca sostenendo che l'osservatorio diretto da Virano, da cui sono stati esclusi fin dall'inizio, vabbè, ma è uno, sì, è uno che semplicemente è a favore della TAV. È quello che adempie all'obbligo di consultare le popolazioni locali. Ma andiamo, ragazzi, consultare le popolazioni locali occupando militarmente la valle. Vabbè, ma ho capito, ma ha delle opinioni che possono essere giusto o sbagliate. Vabbè, comunque, secondo lei è un provocatore. Sono convinto che siano tutte, insomma, che certamente dei violenti ce ne sono, non siamo, i Notal non sono mica un esercito, sono un gruppo di gente che dentro cui si può infiltrare chiunque, non abbiamo una polizia. Allora, oggi l'ambasciatore di Israele, se l'è presa con... Che ci sia qualcuno che ha voglia di portarsi in giro delle bombe Molotov nell'automobile, come è successo ancora qualche mese fa, cioè è vero, e cosa ci possiamo fare? Allora, battimo... Vogliamo armare Perino, cosa fare il servizio nei tempi del PC. Ma no, bisogna semplicemente essere senza me. Però, secondo me c'è tutta un'azione di insistenza sul terrorismo, sul pericolo del terrorismo. Che non esiste, secondo lei. È esagerata e provoca esattamente quello che... Vabbè, un'ultima cosa, oggi Israele se l'è presa un po' con lei. Ma intanto non è più lì. L'ambasciatore israeliano se l'è presa un po' con lei? No. Sì, sì, no. Perché dice che nelle sue interviste. Non è un terrorista. Eh? No, dico, siccome è sparita la sua voce. No, sono qui. Titolo preventivo. No, sono qui. Allora, no, Israele, l'ambasciatore l'accusa di essere antisemita per alcune sue frasi pronunciate oggi in un'intervista, credo al Corriere, in cui lei ha detto una cosa pesante sullo Stato di Israele, che cos'è che ha detto? Che l'inizio della rovina è stato lo Stato di Israele. L'inizio... Perché, diciamo la verità, prima di tutto la cultura ebraica era la cultura della diaspora. Adesso che Israele è diventato una succursale degli Stati Uniti, l'unica raccomandazione che si presenta è preferisci vivere nei paesi arabi o piuttosto in Israele, dove tutto è libertà dei costumi. Certo che se mi chiedono in questi termini preferisco vivere in Israele, ma credo che sia una... è la fine, lo dice anche una mia amica che... Ma l'inizio della fine, che vuol dire l'inizio della fine? Scusi. La nascita dello Stato di Israele. Cioè, secondo lei Israele dovrebbe sparire dalla circolazione? Ma figuriamoci, neanche per sogno. Adesso non... lei ma come, è pagato dal Mossad. Ma io non sono affatto, ma è una domanda. Lei dice no, manco per sogno, Israele deve esistere. Lo dica, Israele deve esistere. Allora lo dica apertamente, Israele deve esistere. Ha diritto di esistere. Sì, ma lo dica senza se e senza mai. Israele deve... Però dovrebbe rispettare la legge internazionale, cosa che non fa. Sì, Gaza, vado a visitare Gaza e mi dica. Comunque lo sa che Israele vuole vietare la parola nazista? Come? Ma vuole... no, nazista, non so, poi vuole togliere la parola nazista dal vocabolario. Ma il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che vieta il termine nazista e la rappresentazione di simboli legati al Terzo Reich, che sono utilizzati per propositi educativi o storici. Perché qualcuno di loro l'ha accusato di essere un nazista. Cioè, per questo dice lei? Ma non so, dir la verità. Oppure la damnatio memoriae, cioè non sono... Cioè è sbagliato, dice lei, è sbagliato fare una cosa del genere, è impossibile. No, mi sembra una cosa che non capisco tanto, per quello che ho letto nei giornali sembra che fosse stato vietato, insomma si vieta questo termine per evitare che qualcuno chiami nazisti. Carcere per chi la dice addirittura, carcere per chi pronuncia la parola, questo mi sembra un po' esagerato, non riesco a capire. Ma tanto esagerato tutto Israele, quando un poveretto manda il piccolo razzetto Kassam che non fa male a nessuno, distruggono un intero villaggio. Ma quel razzetto Kassam non fa male a nessuno. Ma dai, ma mi dica quanti morti hanno fatto. Ma dai, i razzi Kassam ammazzano la gente. Ma... se la beccano. Ma, non ma, la ma beccano ho capito, un piccolo mai. Razzetto Kassam che non fa male a nessuno. I bulldozer distruggono tutto il quartiere. Ragazzi, ma piantiamo. Vabbè, un'ultima cosa, Vattimo. Perché lei non si arrende alla pensione, come Caselli, per esempio? Vuole restare in politica? È una malattia questa roba qua. Ma non so, è una malattia, mi dica la verità, lei ha un po' una malattia della politica. Ma no, mi ci sono appassionato, mi dispiace, c'è un sacco di roba che ancora... Quanti anni ha lei, scusi, quanti anni ha? Io ne ho 78 compiuti. Basta con la politica! Ma perché me lo dite voi? Ma no, smettiamola con la radio pure magari. Arrivederci, grazie, ciao. Mi meraviglio per lei che è una persona intelligente, che se lo porta a fare a questo tipo? Lo lascia in cantina, no? Lo domando anch'io, diciamo. Non mi secchi, non stia a seccarmi. Signor Almirante. È proprio rincoglionito forte lei, Non si rivolge a me, si rivolge al mio socio che oggi ha deciso di prendersi un giorno di pausa. Per farsi i cazzi suoi. Allora... Squitieri alla zanzara mi ha fatto venire voglia di vomitare, è la cosa più leggera che leggo online, su Twitter, eccetera. Mauro D'Amantova, Mauro. Ciao Cruciani. Oh Mauro, ma non c'è Parenzo, che chiami a fare? Ma dov'è l'orrendo nano? Non lo so dove è andato, non lo so dove è andato. Lo psiconano. Mamma, lo che so. voglia di dargli una cinquina su quello. Dai, pure tu esageri, dai, su, Mauro. Ma che ti ho promesso che gliele do, gliela do. Ma dove gli hai promesso che te la gliela dai, dai? Ma forse non ci siamo capiti, Cruciani. Io quello che ti dico lo trasformo in fatti. Io non sono un quacquaraquà. Ma ho capito, ma poi ti arrestano, quello ti denuncia. Ma quello ti denuncia se lo vuoi picchiare. Ascolta. Ci ha provato Boni. Ci ha provato? Querelami. Boni querelarmi. Querelami. Hai tempo e soldi da buttare? No, io non ti querelo perché non me ne frega niente di querelarti. Lui ti deve querelare. Ascolta, a me non cambio ragno dal buco. Io non posseggo nulla. Ma ho capito, ma perché sei uno allora, di... ma sicuramente è inutile tasse, vadi il fisco. Pronto? Cosa? Sicuramente perché scusa, non dichiari nulla? Scusa, come fai a campare senza dichiarare? Scusa, ma cosa ha fatto questo stato di merda per me? Che ha dato pensioni per telefono. Ha dato pensioni a gente cieca solo per avere i voti. Vabbè, abbiamo un governo, un non governo abusivo. Fatto da uno che dovrà essere processato per mafia, il Presidente della Repubblica, unico in tutto l'universo. Vabbè, non è processato per mafia, dai Mauro, non dire cazzate, dai. No, non è processato. Scusa, ma l'esercito di Mauro su Twitter, è opera tua l'esercito di Mauro su Twitter? Sai che c'è... Ma sono cagate che fa quell'idiota che viene lì a leccare il culo un po' i politici, quando non lecca il culo i politici, viene da te a spararmi in chiate, quella è brava del cazzo. No, calmo, Mauro. Ascolta, cos'è sta storia? Cosa? Che non si può parlare. Primo, sui miei telefoni c'è su il Duce e Hitler. Primo. Cioè, tu hai un telefono in cui c'è il Duce e Hitler? Tutti. Ma sei un malato di mente, Mauro. Sei un malato. Malato. Ma ascolta, ma io farò quel cazzo che mi pare sul mio telefono. Ma io sì. Ci voglio vomitare sopra sul telefono. Ci voglio cagare sopra. Posso farlo? Sì, per carità. Sì. E io potrò dire che sei malato o no? Ma questo... Ascolta, tu puoi cagare sopra il telefono. Ma io cosa devo essere preconfezionato? Io ognuno ha la propria scelta. Sa cosa mi ha detto più di una persona? Che ti hanno detto? Che sono incazzati con Hitler, più di una persona che sono Che sono incazzati? Con Hitler. Vabbè, questo, la gente non pensa Hitler oggi. Allora, la gente non pensa Hitler. Allora io gli ho detto, perché? Perché non ha finito l'opera. Dai, su, Mauro. Sai quanti che ne ho sentiti dire così? Ma questa sembra la barzelletta. Ma ci sono! Ma sono quattro dementi, dai! Sembra la barzelletta di Berlusconi quando parla della. Cruciani, primo, quel sapientino che ci diceva che Squizieri è il marito della Sofia Loren, ha detto. No, è della Cardinale, Ecco, allora prima di parlare si documenti. Secondo, Marò, non ci siamo mai chiesto perché non vengono portati a casa i Marò. Perché non vengono portati? Sa chi è Silvia Monti? Silvia? Silvia Monti? Silvia Monti, no, non so chi è, dimmi. Ma è un cognome che mi ricorda un certo Mario. Ah, Silvia Monti, che è la figlia, che cos'è, no? No, è la sorella. La sorella, allora? Sa chi ha sposato Silvia Monti? Ma chi ha sposato, Mauro, chi ha sposato? Il primo evasore fiscale, a cui sono stati condonati 25 milioni di euro. Ma dai, sulle solite cazzate. Per l'urbanizzazione di Surgenia. Ma stai dicendo le solite puttanate, dai, ma su. No, ma lo guardi? Stasera non c'è Parenzo, per cui non c'è. Ma tu lo guardi il telegiornale? Vabbè, ma che c'è? Allora. Allo Stato italiano ha condonato 25 milioni di euro di urbanizzazione su Genia, che dice Benedetti. Sì, volevano condonare. No, glieli hanno condonati. Non cambiare le cazze sul tavolo. Mauro, ti abbandono. Ciao. No, perché sei scomodo, quelle cose qua. Ma che scomode, che me ne frega, me di Benedetti. Comunque, che scomode. Ti dirò, Mauro, sai perché gli lasceranno là a ammazzarli? Perché c'è Ginevra, Piazza Aprilia. Traffico. La zanzara è quell'odioso insetto. Non si perde Parenzo, che non arriva nemmeno al tavolo, quindi non è una persona normale. Parenzo nemmeno al tavolo, se lo metti in piedi non arriva al tavolo, quindi non lo prendiamo in considerazione, via. Zara mi son messo via, ma lei gira sempre intorno a me. E balli il sorriso, e balli il sorriso. Lo scandalo Squitieri è scoppiato qui alla Zanzara. Lo scandalo Squitieri, per alcune frasi molto pesanti sulle figlie di 10, 12, 13 anni, sul sesso, quando bisogna parlare di sesso, ma è inutile che vi spiego cosa è successo. Ascoltate Pasquale Squitieri. Ma quindi il problema non è darla, il problema è prenderlo. Se non lo prendi non cresci come donna. Io ho 3 figlie femmine, sì. E quando avevano 10, 12 anni, 13 anni, cioè ancora vergini siete? Ma insomma è una vergogna. Avevano 10, 13 anni? 10, 13, 12, sì. E che gli hai detto? Che erano ancora vergini? Che era una disgustosa questa cosa che fossero ancora vergini. Quale piccole, tu prendi una ragazza di 12-13 anni, non è più come all'epoca mia che sono vecchio, rincoglionito. Oggi una ragazzina di 12-13 anni ne sa più di chiunque altro. Beh, con tutto quello che ha a disposizione, questo, di formazione. Questo può darsi, però non è che mamma uno dice mamma mia, fanno paura. Tu sei mai stato con una minorenne? E come no? Io ho sposato una minorenne nel 1965. Sì, ma stava con me da quando era 13. Cioè, tu hai fatto l'amore con questa che aveva 13 anni? Esatto. Ma e tu quanti ne avevi tu, scusa? 22. Ma cioè, è una specie di reato questo qua, scusa Pasquale. Ma certo. Come certo? Ma noi viviamo nel reato, scusa, ma perché? E poi all'altro una botta col pazzo. Maria da Varese, buonasera Maria. Buonasera Cruciani. Sì, dimmi. Allora, io volevo dire che secondo me è vergognoso e disgustoso il fatto che sei tu che provocavi Squitieri, che è rincoglionito, l'ha detto lui stesso, a parlare. Perché come mandi le ambulanze, come mandi a fanculo chi ti pare, mandavi a fanculo anche lui. E mi dispiace che non c'è Parenzo, che definisci essere un senza palle, perché Parenzo si sarebbe indignato. Io non ho affatto definito Parenzo senza palle, questo lo dici tu. Normalmente continui a mandare, lo dico io perché continui a mandare messaggi, io tra l'altro un tipo per Parenzo, sono una tua fan, quindi stasera sto ribaltando completamente la mia visione. Che problema c'è? Lo provocavi tu il rimbambito lì, che non dovevi neanche... Ma guarda, io non l'ho provocato affatto, io gli ho fatto, ma poi ti voglio chiedere un'altra cosa. Io gli ho fatto una domanda. Lasciami dire un'altra cosa. No, ma aspetta un attimo, perché? Maria, io lo provocavo, che provocavo? Sarei uscito, ma che c'è? Te l'ho chiamato, mica. Ma è servita la telefonata di Squitieri a fargli dire che alle sue figlie gli ha detto di trombare a 10 anni? No, ma non gliel'ho chiesto io. Non gliel'ho chiesto io. Quali sono stati? Vabbè, ma quello lascia perdere, ci sono interviste che riescono meno e interviste che riescono di più. Ma interviste gliel'hai fatto dire apposta. Ma non dire puttanate, non dire puttanate. Ma assolutamente non ho mai detto nulla. E il divertimento è stato quello, divertimento da disgusto, perché senti, guarda, amica è mia, come la frase di ieri sera della Santanchè, che di fa quello i pisellini che ti pare, dai. Freschi a gennaio, pisellini freschi a gennaio, forse li vorrebbe, ma non ci sono. Vabbè, parla da sola, dai. Quindi, vai, no, vai, forza. Ma non parlo da sola, è perché quando va bene interrompi, sì. E fai quello che devi fare. Quando ti fa comodo, fai sentire. Ma non è questione di comodo o non comodo. C'era un'intervista fissata oggi con Squitieri, se n'è uscito con queste frasi qua. Ho cercato di capire fino a che punto poteva arrivare con queste cose. Mi sono stupito, gli ho detto: ma scusa, ma sono troppo piccole, 10, 12, 13 anni. E lui insisteva: ma che piccole, ormai le ragazze crescono, eccetera, eccetera. Poi ha detto quella cosa sulle tredicenni, punto e basta, perché lui ha avuto un'esperienza con una tredicenne. Non so se fosse alla fine sua moglie, sì, credo la cardinale, forse, non lo so. Ma è punto. Stata una domanda fatta dopo. Ma che vuol dire? Certo che è una domanda fatta dopo, ma non è che io l'ho provocato su questo. Adesso vedi, se io insistevo su questo, beh, lei mi avrebbe crocifisso, perché dice: no, non puoi entrare in questi dettagli, vergogna, dove interrompere subito. No, è vero, non l'ho mandato a fanculo. Tutto qua si permette di dire queste cose e nessuno gli dice niente. A quello che ha telefonato poco fa gli hai detto che delle frasi sono da demente. Allo stesso modo potevi dargli del demente a questo qui. Io dico solo quello, io mi diverto a sentirti mi fa piacere quando polemizzi e quando mandi a quel paese le persone. Ho capito, ma non c'era niente da mandare a far culo. Scusa, caso, ma perché avrei dovuto mandare a fare in culo a Squitieri? Spiegami. Ma perché niente, perché no, avrei dovuto mandare a fare in culo a Squitieri? Spiegami. Perché, spiegami. Perché ha raccontato un'esperienza personale. No, io non lo mando a fare in culo, ha raccontato un'esperienza personale. Sì. Ha raccontato un'esperienza personale, non lo. Pasquale, mi senti? Se è successo un casino qua, è successo un bordello. Ma sai, sono sempre più convinto, sì, che quelli che ti chiamano e mi insultano, sì, sono i genitori delle migliaia di ragazzine di 13 anni che fanno le puttane in Italia, perché non hanno saputo dare un'educazione sessuale ai loro figli. Questo è il problema. Ma non senti con che acrimonia si incazzano con me? Io penso che i genitori abbiano, specialmente con i tempi che corriamo, il dovere sacrosanto di indirizzare i figli verso il rapporto sessuale, la sessualità. Sì. Questo non lo dico io, lo diceva un secolo fa la figlia di Freud, Anna Freud, sulla psicologia dei minori. In molte scuole si, sì, insegna sesso dopo la quinta elementare. Aspetta un attimo, Pasquale. Maria, come rispondi a questo? Maria? Rispondo che io ho fatto, forse ho 47 anni, ma ho fatto una scuola che era molto avanti. L'educazione sessuale l'ho fatta in prima elementare e in seconda. E mia madre e mio padre, che ringrazio, mi hanno spiegato alle elementari queste cose. Io non ho nessuna credine, figlia puttanella. Come sei d'accordo con me, scusami, quello signora. Che dico, ma no, quello che dico è che certe cose, veramente, ma se le tenesse per lei, con tutto il rispetto, perché non ha senso andare a dire che ha detto alla figlia di 10 anni che era disgustoso essere vergine, ma riregga le parole che ha detto e ha esordito dicendo. Vabbè, Pasquale, che il problema l'hai detto tu. Ma era un paradosso, insomma. Dai, era così evidente, no, non si può. È chiaro che io parlavo per paradossi, cioè ai figli a 12, oggi ci sono le ragazze a 12 anni che hanno le mestruazioni. Il sesso per loro è una cosa straordinaria che bisogna spiegare. Però scusami, Pasquale, c'è un sacco di gente incazzata, come hai sentito sicuramente, che dice tu non puoi dire quelle parole. Ma questa gente perché non si incazza con quelli che hanno delle figlie prostitute a 12 anni? Beh, si incazza magari perché non ce l'hanno. Questo è un paese di prostitute minorenni spaventoso. Speriamo di no. Speriamo. Tutti i giornali e su tutta l'informazione che le ragazzine a 12-13 anni fanno le mignotte, i soldi, e ci sono genitori che recuperano pure questi soldi. Vabbè, ma ho capito, ma non è che tutti i genitori sono così, una minoranza della minoranza della minoranza della minoranza. Non esistono le minoranze, esistono i fatti integrali. Cioè noi abbiamo una, scusa, poi cioè, dopo i consigli che date alle tue figlie, che cosa è successo? Sono tutte donne felicissime, sposate, prima di tutto le ho mandate a studiare all'estero, dove non ci sono misteri sul sesso, in America, in Russia, in Francia, le mie figlie sono tutte laureate, e io poi ho anche un figlio maschio, hanno tutti dei figli. E la donna che ti sei sposato, con cui hai fatto l'amore per la prima volta a 13 anni, chi era? La cardinale? No, che cardinale c'è la mia età? Ah, ma a che ne so io? No, era Silvana Filotico, io mi sono sposato due volte. Ah, due volte, ecco, una volta con Silvana Filotico e una volta con Ottavia Fusco recentemente. Ma scusate, ma hai avuto anche altre esperienze con bambine piccole? No. No, solo quella volta no. Là. Solo però quella. Ti spiego, perché proprio devo spiegarmi. Io ero istruttore di scherma e avevo a mia disposizione un gruppo di giovanissimi che... Sì. Di questa ragazza mi sono innamorato, ne ho parlato con il padre tranquillamente, io avevo 21 anni. E lei 13? E lei 13-14 anni, benissimo. E mi ricevevano a casa, frequentavo casa, eccetera. Poi ebbi l'opportunità di seguire Francesco Rosi, il regista, come attore e assistente suo per un paio d'anni. Sì. Dopodiché ci siamo rivisti, lei aveva 17 anni. E abbiamo deciso di sposarci. Sì, però scusa, tutto Pasquale, qui. D'accordo, questo è chiarito, però non puoi dire che io, per carità, ti ho messo quella frase della Sant'Anchè, dici il problema non è non darla, ma è prenderlo. Cioè, secondo te è più importante, ce l'hai detto in maniera brutale. Sì, l'ho detto come mi va di dirlo, ma. Vabbè, ma questo è Pasquale Squidetti. Questo è Pasquale Squidetti. Di quelli che mi hanno insultato, senza capire che volevo fare un discorso provocatorio. Ma dopo l'hai fatto. Sull'educazione sessuale che bisogna dare particolarmente alle figlie. Ma vabbè, la gente è rimasta colpita da quella frase che hai detto. Ma colpita da che? Dalla loro ignoranza, dalla loro incapacità. Tanto vero che c'è una prostituzione minorile in Italia che fa paura. Ciao, caro. Perché i genitori non spiegano alle figlie, alle ragazzine, il sesso, che cos'è il sesso. Che cos'è la verità? Comunque non è vero, ma non è vero che fa paura, dai. Non è, sono minoranze delle minoranze. Pasquale, ti saluto, ciao. Ti abbraccio, ciao. Ma dai, basta, Parenzo, cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda. Why don't you go on? No, no, no, no. A Parenzo c'è ancora? Non voglio più sentirlo, ma si può abbassare Parenzo. Non mi molesti moschito. Allora, il Cavaliere sarà al Nazareno, alla sede del Partito Democratico, domani pomeriggio. Alla fine ha vinto giustamente Renzi, il quale, per discutere di legge elettorale, dice che non bisogna escludere Silvio Berlusconi. Ma di che stiamo parlando? Dai, una discussione surreale nei giorni scorsi, surreale. Il nostro amico Buonanno, Gianluca Buonanno, deputato della Lega Nord, che si è tinto la faccia di nero con un cerone un po' scuro, marroncino, diciamo, ieri, dice oggi in un'intervista al Libero: l'Italia ha il dovere di risolvere prima i problemi della sua gente, e poi guardi, non prendo certo lezioni da gente come Lerner, quell'ebreo. È un ebreo perché si vanta di essere ebreo, mi pare. Ci racconti, Lerner, di quello che fanno i palestinesi? Non mi pare si facciano tanti problemi con loro. La Littizzetto mi fa orrore. Una comunista col portafoglio a destra, ancora guadagnerà altri soldi andando al Festival di Sanremo a farci la morale. Guadagnerà 300.000 euro per pochi giorni e poi... Chiama il giornalista di Libero e dice: può aggiungere che quell'Erner è anche un radical chic al soldo di De Benedetti? È un tilchio pieno di quattrini che fa il comunista. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? Eh sì. Salvini incazzato con Striscia la Notizia, questa sera prenderà il tapiro d'oro sulla denuncia che ha fatto il deputato europeo Tarabella, che gli ha detto assenteista, fannullone. Sentiamo Striscia su Salvini. Salvini si è incazzato per questo servizio di Striscia, è incazzato dicendo che non ascolterà mai più, non vedrà mai più Striscia la Notizia, ha perso un telespettatore, se ne fotteranno quelli ovviamente. Però non è che Salvini può pretendere da Striscia la Notizia il dibattito, cioè Striscia la Notizia fa i servizi a Striscia la Notizia, che pretendeva? No, non mi hanno dato la possibilità di replicare, non c'erano le cifre esatte dalle mie presenze, ma è Striscia la Notizia come la zanzara, non è che c'è il dibattito qua. Attenzione! L'eurodeputato leghista Matteo Salvini è stato pubblicamente redarguito al Parlamento europeo di Strasburgo. Vediamo. Mark Tarabella, della direttiva sugli appalti pubblici, sgrida Salvini. Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Perché? Perché per un anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io. Esimio giornalista, cosa ne pensa? Che figura di merda. Ci sta, ci sta. E ci sta sì. Chi non ci sta è Salvini in aula. Siamo fatti così. Le zanzare di casa mia. Io credo che Salvini si sia incazzato soprattutto per quella frase estrapolata di Fede. Che ne pensa, direttore? Che figura di merda. Però Striscia Notizia non è il dibattito, non è il dibattito, chiaro? La cruda verità, le zanzare di casa mia mi adorano perché sono pazze del mio sorriso. Mi adorano perché... Non sento più, guardi, sto entrando in un... Pronto? Sto entrando in un tunnel, pronto? Noi la pronto? Sentiamo. Ci sente? No. Grazie, una bravo culo. Dai, news. Voleva sapere perché... Ci sente? Devi trattare così. Va bene, la ringraziamo. Grazie a Tony Servillo. Non riusciamo più a sentirla. E festeggiano sul cuscino. Fa Edmondo da Torino. Intanto buonasera Fulvio Abbate. Caro Fulvio, come stai? Caro Giuseppe, sta una meraviglia. Tu? Beh, non c'è male. Dimmi che hai adorato il vaffanculo di Servillo. Dimmelo come me. Se ti può fare piacere te lo dico. In realtà non l'ho adorato. No, non mi può. Non voglio che tu dici quello che mi fa piacere. È sembrato una caduta di stile, una roba di una protervia assoluta, insomma. A me, secondo me, è peggio la frase, l'ho già detto, lo dico da tre giorni, sono ripetitivo, è molto peggio la frase precedente in cui non vuole parlare delle critiche perché intorno alla grande bellezza ci vuole una sorta di istituto luce, l'unanimismo più assoluto, è molto peggio questa roba qua del vaffanculo che può scappare in realtà, no? Quando sei... il vaffanculo è detto dopo, dice ma chi era? E una dei annazza a fanculo, così... C'è un elemento di protervia divistica che è insopportabile. Detto questo, sinceramente, la giornalista ha detto, ma cosa possiamo dire delle critiche che il film aveva ricevuto? E lui, pretendendo a quel punto l'unanimismo, come a dire, mo adesso che siamo stati, diciamo, siamo certificati per l'Oscar, sì, io certo. Ho incontrato nel mio quartiere uno dei due italiani, sì, un mese fa più o meno, che mi ha detto che Oscar garantito, insomma, questo film. Quindi dobbiamo, cioè, intorno a lui voleva l'unanimismo totale intorno a questo film, nessuna critica, voleva l'elogio continuo, però insomma uno deve anche consentire, allora no? il film, diciamo, mentre il divo, quello lì che parlava di Andreotti, era un film, diciamo, perfetto, una macchina di orologeria, io parlo da spettatore, Giuseppe, perfetto, questo qui è un film mancato, è mancato sul piano, diciamo, della cartolina realistica, ma è mancato anche sul piano della cartolona grottesca. Diciamo, addirittura un esponente di Fratelli d'Italia oggi dice che sputtana Roma, sputtana l'Italia. Ma non è vero, Roma è un aggregato di miserie piccolo borghesi, e poi questo film non ha fatto incazzare nessuno, dimmi uno che si è sentito vilipeso. No, assolutamente. E allora è mancato. Aspetta un attimo, incazzare. Che non volevo parlare della grande bellezza. Edmondo da Torino, qui stasera è successo un casino. Edmondo. Sì, buonasera Cruciani, veramente francamente non so da che parte incominciare. Volevo farle i complimenti però, perché lei è stato bravissimo a trasformare la sua trasmissione, che un tempo era una trasmissione più che ascoltabile e come dire molto interessante, in una cloaca, come ha fatto. Sì, in una cloaca. Sì. Lei deve cambiare il titolo alla sua trasmissione, la deve chiamare I Nuovi Mostri oppure Radio Terzo Reich. Radio Terzo Reich. Sì signore, perché gli invitati, a parte il fatto che lei difende Forison, urla. Ma io difendo diretta, Forison. Sì signore, me lo ricordo benissimo. Ma quando due o tre anni fa. Ma quando Cruciani, mai? Cruciani, non sia bugiardo. Due o tre anni fa, quando ma io ho detto che ha tutto il diritto di dire. Esatto. Certo. E lo disse, esatto. Ma lo difendo, no, perché penso che sia un personaggio orribile. Lei ha cominciato a urlare viva Diodonè. Certo, viva la libertà di Diodonè, è diversa la cosa. Io dico, lei è uno stronzo, ma è anche ignorante. Pazienza. Perché lei non capisce che Auschwitz comincia dalle piccole. Cose. Ma se me lo dice lei non me ne frega niente, ha capito? Lo so benissimo che non gliene frega niente, lei non frega niente di nessuno. Bene. Lei infarcisce la sua trasmissione con ospiti come il nazi comunista Gianni Vattimo e Mauro Di Mantova, che ogni volta che chiama dice delle cose da denuncia penale e non mi venga a raccontare. E denunci lei, faccia denuncia lei allora. Non ci sto pensando. Ma non che mi pensando, venga a raccontare. Ma smetta. Non mi venga a raccontare che lei non sa che è Mauro Di Mantova che chiama. Chi è Mauro Di Mantova? Un giornalista come lei. Chi è Mauro Di Mantova? Non mi prende per il culo. Non lo so, le assicuro. Non mi prende per il culo. Non lo lei so. Quando chiama Mauro, lei gli dice, ma Mauro, ma quanti cellulari hai? Ah, non riusciamo mai a filtrare. Non so chi è. Chi è? Non prenda la gente per il culo. Io lo so che lei non sa chi è, nel senso che non lo conosce personalmente. Ah. Ma lei sa perfettamente quando Mauro Di Mantova chiama. Beh certo, c'è scritto Mauro Di Mantova. C'è scritto nel teleschermo che ho qua davanti. E allora perché ci prende per il culo dicendo che lei dà ordini invece al centralino di non passare? Ma io non ho detto mai questo, non ho mai detto questo. Ma Cruciani, lei è un bugiardo. Edmondo, lei ha detto questo. C'è un limite di un mese, se uno ha 10 cellulari e chiama con un numero diverso. Ma lei è un malato, è malato. Tutte le volte la smentisce dicendo "No, io ne ho uno solo". Vabbè, quello che dice è falso però. quello che dice è falso. E allora se c'è scritto Mauro Di Mantova, come mi ha detto appena lei, ha detto, che gliene frega, perché non le viene. Ma perché no, è così perché fissato? Lei mi prende per il culo tutti quanti. Vabbè, ma se lei si sente preso per il culo, se lei si sente preso per il culo, sa perfettamente che Mauro Di Mantova è al telefono e dirà quelle cose. Poi? E a lei fa piacere. Ma figuriamoci. A lei fa piacere, certo che le fa piacere, come le fa piacere che Squitieri abbia detto queste cose. Ma figuriamoci. Questa sera Squitieri è una persona veramente disgustosa. Sì. Lei ci ha goduto quando Squitieri stava dicendo quelle cose lì. Si vedeva chiaramente che lei voleva che andasse avanti, voleva che esagerasse. Tant'è che l'ho interrotto a un certo punto. Ho cambiato argomento. L'ho interrotto perché altrimenti arrivavano i carabinieri sotto. Ma sotto quali carabinieri? Via Monterosa 91. Cruciani, lei Edmondo. Sta esagerando. Lei ha perso la brocca. Sì. Lei ha perso la brocca. Di mestiere, brocca. Che fa lei di mestiere, Edmondo? Io faccio il giornalista come lei. Ma dove? Detto, dove? Detto prima. Dove? Se vuole glielo dico, se vuole glielo dico privatamente. Mi chiama. Perché no? Che, ma che è il Mossad? Perché preferisco di no. Ma che è il Mossad? Preferisce di no. Non dice dove lavora. Ma adesso guarda che roba da matti. È stato all'attacco, Cruciani. È roba da matti. Dove lavora? Dove lavora Edmondo? Dove lavora? Una radio, Cruciani. Ma dove? Quale radio? Quale radio? Una radio in Liguria. Ma basta dirlo. Dica, non lo dica. Non lo voglio dire e non lo dico. Cioè lei mi chiama glielo dico. Vabbè, ma lei fa il fenomeno. Poi non vuole dire manco. Anche quando vado in onda, se lei mi chiama glielo dico e le dico anche quando vado in onda. Vabbè, ha finito questo sfogo? Ma guardi, io potrei andare avanti ancora 20 minuti, guardi un attimo solo, fammi sentire da Fulvio Abate se trova indegno questo intervento di Squitieri. Risentiamo Squitieri un attimo. No, Squitieri. Io trovo, diciamo, che la cosa più indegna di Squitieri sono quegli occhiali tenuti sempre sulla fronte. A parte questo, Squitieri è persona amabile e poi credo che questo paese manchi di laicità. Dovunque tu ti sposti, un giornale, ad esempio io scrivo sul Fatto Quotidiano, ogni volta che viene pubblicato nel sito del Fatto Quotidiano il mio articolo è un diluvio di insulti che mi rendono. No, ma senti quello che ha detto Squitieri però. Ma quello il problema non è darla, il problema è prenderlo. Se non lo prendi non cresci come donna. Io ho 3 figlie femmine, sì. E quando avevano 10, 12 anni, 13 anni, cioè ancora vergini siete, ma insomma è una vergogna. Avevano 10-13 anni? 10, 13, 12, sì. E che gli hai detto? Che erano ancora vergini? Che era una disgustosa questa cosa che fossero ancora vergini. Fulvio, dimmi. Ma dai, ma come cazzo si fa a non capire che a non apprezzare il paradosso di Squitieri? È evidentemente un paradosso. È così, lui l'ha detto dopo. Io all'inizio non l'ho preso all'inizio come un paradosso, Fulvio, devo dirti la verità, non l'ho preso come un paradosso. Ma sì che è un paradosso. Ho capito, però lo possiamo intuire. Io all'inizio pensavo fosse assolutamente serio, poi lui ha detto no, ma io era un paradosso. Ma no, Pasquale è una persona meravigliosa, uno che dice che sovente lo scambiano per l'autista della Cardinale. Dico, scusi, lei chi è l'autista? Dai, stiamo parlando di una persona che in apparenza può sembrare, diciamo, mostruoso. In realtà è una persona, diciamo, ce ne fossero come Squitieri. Cioè, diciamo, per cui quello che ha detto non ti sconvolge proprio, non ti... Ma una battuta, è il paradosso, come quando tu dice mia figlia è stata violentata, anche la mia con un candelabro del 700, la mia del 500, dai! Un minimo, ma stiamo scherzando. Lo so, però sai, detto in quel contesto, perché tutto era partito da una frase della Santanchè, che ieri ha detto qui alla Zanzara, io sono felice perché l'ho data poche volte in vita mia, invito tutte le ragazze a non tradire, a non darla via, a darla poco, si gode molto di più. Io l'ho fatta sentire a Squitieri che è partito con questa cosa, per cui tutto sembrava tranne che un paradosso, però poi lui... Sinceramente mi sembra un paradosso. Ti ho detto, il crimine maggiore di Squitieri sono quegli occhiali sulla fronte, portati come un'arma impropria. va bene, ciao Fulvio, a presto, ciao. Santino Agrigento, buonasera. Buonasera. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Ma che ti devo dire, adesso prendo atto della minima correzione da parte di Squitieri, anche qui di Abate. Beh, lui non è che ha... Ma guarda, io ti devo dire... oggi nel giorno dell'assenza di Parenzo tu sei riuscito comunque a rivalutare Parenzo e con stima immutata nei tuoi confronti ti dico che hai toccato il punto più basso della conduzione della trasmissione. Ma che vuol dire? Tu hai lasciato parlare un pazzo come tu quando Mauro da Mantova o Edmondo da Torino sparano cazzate e dici vabbè siete malati mentali, ma perché non l'hai detto a Scutieri? Vabbè, sei un adesso, malato mentale. Ma perché non era da dirgli sei un malato mentale, dai. Che sua figlia, quando scopre che sua figlia ha 10 anni e è ancora vergine, dice una vergogna. E ci dice che ma perché non ci potevo credere, che non ci potevo credere. No, guarda, io non, per poco non sono andato a sbattere in autostrada perché non ci potevo credere neanche io. Poi dico ora Cruciani lo manda a fanculo. Ma invece no, no, ma l'ho che lasciato certo, parlare. Ma certo. Poi avete parlato certo che l'ho lasciato parlare. Anni, avete parlato di altre cose, cioè come se niente fosse. Ma il degrado morale di questa Italia, Cruciani, degrado morale, degrado morale. Scusami. Ma quale ripeto, degrado con, morale? Con immutata stima. Però non c'è nessun degrado morale. Non puoi lasciare parlare un pazzo che poi dopo in replica dice ma le mie figlie sono tutte laureate e tutto a posto. Che cazzo dice? Ma cosa dice? Allora con la droga, allora mio figlio lo faccio drogare perché ce ne sono tanti che hanno usato le droghe da piccoli che poi si laureano e vanno bene. Ora, alle figlie di Scutieri, che ha intervistale domani, e se anche loro hanno delle figlie, domani è sabato, chiedi a loro se alle loro figlie dicono, quindi con le nipotine dei Scutieri dicono dai a 10 anni datela, che crescete, serve darla per crescere. Ciao. No, Cruciani. Che ti devo dire, Santino? Ti ripeto, oggi non so cosa ti è successo. Ma non mi è successo niente. Ma non dire stronzate, dai, su. L'ho lasciato parlare e poi abbiamo parlato d'altro. E poi si scala. L'ho lasciato parlare, però. E che devo fare? Altri che lo dici siete dei malati mentali, dicendo dai, non sparate cazzate, mi dissocio da quello che dite. E a lui lo lasci parlare, poi parla di una. Io sono abbastanza d'accordo. La frase è orribile, ma sono d'accordo con quello che ha detto. La frase resta orribile perché era ambigua, ma sono d'accordo con quello che ha detto prima Abate. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. A presto. Un bacio dove ciao. Vuoi. Ciao. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Mizzega, che bel mondo che abbiamo. Radio 24. La passione si sente.